Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano con l'attualità internazionale. Mira Lucchetti, Nadia Zammiti sono in redazione e Valera Bernardi in regia per questa puntata. Vi ricordo gli sms al 349-238-6666, Twitter Giampaz oppure Nessunluogo24, Facebook Nessunluogo-Lontano-Radio24, queste le coordinate per commenti e domande sui temi che tratteremo oggi. Il primo, il principale, è l'Iraq. We have some breaking news out of Iraq. The United States announces it is sending military aid to the Kurds to aid them in their fight against Islamist militants. After 4 hours waiting for patrol, the helicopter finally takes off to Sinjar Mountain. Transporting aid by road is a dangerous mission. The small helicopter is packed with food, water and medicine. Iraq che continua a monopolizzare l'attenzione dei giornali e dei grandi network internazionali, ovviamente. Mentre gli Stati Uniti garantiscono un primo aiuto militare ai guerriglieri Peshmerga, ai guerriglieri curdi, e mentre la Commissione Europea, è notizia di poche ore fa, stanzierebbe aiuti fino a 17 milioni di euro, aiuti umanitari per andare a tamponare quelle che sono situazioni drammatiche, lo avete sentito anche dai GR di Radio 24. Andiamo in diretta nel Kurdistan iracheno con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a tutti voi. Allora, Alberto Negri, quest'oggi eri a Makmur, che è questa cittadina ad alcuni chilometri da Erbil, che 2 giorni fa i Peshmerga sono riusciti a riconquistare, chiaramente grazie all'aiuto dei raid statunitensi. Che situazione hai trovato a Makmur, Alberto? Innanzitutto Makmur si trova a meno di 40 km da Erbil, questo fa capire perché soltanto 3-4 giorni fa qui da Erbil c'è stata una grande fuga con migliaia di persone che hanno lasciato la città appena si è diffusa la notizia che Makmur era caduta. E c'è una lunga strada diritta, un nastro asfaltato che in pochi, diciamo in 40-50 minuti porta alla capitale del Kurdistan. Quindi quando l'ISIL, quando le milizie del califfato hanno preso Makmur, si è diffuso il panico anche a Erbil. Ricordiamo che era caduta una città di alcuni milioni di abitanti con Mosul in mano alle milizie jihadiste. Sì. Quindi la caduta di Makmur ha avuto un significato molto importante dal punto di vista militare e anche un impatto psicologico notevole sulla popolazione. Le truppe del curde e dei Peshmerga sono riusciti a riconquistare questa città. Io oggi sono stato lì, però devo dire che la situazione, anche a detta proprio degli abitanti, dei pochissimi che sono rimasti, perché la città è una città fantasma, completamente abbandonata, alcuni oggi sono tornati a prendere i loro beni, le loro cose, ma non si fidano a tornare indietro perché stanotte ci sono stati dei lanci di mortai da parte di miliziani jihadisti e quindi temono che questi possano ritornare lì. Quindi la situazione è ancora molto molto precaria perché la difesa anche delle postazioni militari da parte dei Peshmerga è assai difficile. Qui si parla di aiuti, ma sì, è vero, ci sono stati bombardamenti dal cielo, è vero, gli americani hanno promesso armi, ma io personalmente ho visto combattere i Peshmerga ancora con le vecchie armi di prima, sì. Cioè non hanno un'artiglieria pesante, non hanno a disposizione i missili, non hanno a disposizione i razzi con cui potrebbero contrastare l'avanzata delle milizie jihadiste, che sono invece ben armate perché si sono portati via le armi che hanno trovato nelle caserme abbandonate dall'esercito iracheno. Sì. Qual è il morale delle truppe Peshmerga, Alberto? Questi primi raid statunitensi hanno dato nuovo vigore alle loro azioni oppure aspettano di più, come dicevi tu, più armi, più munizioni? No, il morale sicuramente si è risollevato. Teniamo presente che qui a combattere con i Peshmerga sono arrivati persino gli uomini del PKK curdo del Kurdistan turco, cioè quelli che un tempo erano considerati dei terroristi, quelli tanto per intenderci di Apo Calan, ecco, Quindi noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui stanno venendo anche quelli della diaspora esterna curda per sostenere i peshmerghi in questa battaglia. Certo, i raid hanno risollevato loro il morale, questo non c'è dubbio, perché hanno fatto capire ai curdi che gli americani non abbandoneranno mai al loro destino il Kurdistan iracheno. Però ci vuole ancora ben altro, ci vuole molto altro in più perché possano in qualche modo contrastare davvero l'avanzata dell'ISIL. Sì. Dello Stato islamico. Alberto, si avvertono a Erbil, a Makmur, i riverberi della crisi istituzionale e politica che è in corso a Baghdad in queste ore? Beh, Makmur è una città fantasma, come ci ho detto prima, è praticamente stata completamente abbandonata ai suoi abitanti, è un luogo deserto. Erbil invece, come sapete, col fatto che qui ci sono pozzi di petrolifero di grande importanza, risorse importanti, è diventata in questi anni una città che è il doppio, il triplo almeno di quello che era un tempo che io ho conosciuto nell'arco di 20 anni, e quindi c'è comunque l'idea che quello che sta avvenendo a Baghdad ha un'estrema importanza perché si riflette direttamente su quello che può avvenire qui in Kurdistan. Parliamoci chiaro, se i jihadisti combattono per uno Stato islamico, i curdi del Kurdistan iracheno combattono per avere un giorno un loro Stato autonomo dalla stessa Baghdad, e quando hanno visto le lotte intestine interne tra gli sciiti e Baghdad, in qualche modo hanno capito che probabilmente questo paese è destinato comunque a frammentarsi e sbretolarsi in parti differenti. Alberto, ieri il vice ministro degli esteri Pistelli a questi stessi microfoni ha detto che in effetti c'è stato forse un ritardo tra l'analisi della situazione e l'azione vera e propria. Ad esempio, secondo te è stato forse il più grave errore strategico far cadere Mosul per la quantità di armi che c'erano, per le razzie che sono state compiute? Si è atteso troppo prima di tentare un intervento? Ma direi che si è atteso moltissimo rispetto sia alla caduta di Mosul, che è stato un episodio clamoroso, direi devastante. Mosul è una città di 5 milioni di abitanti, molto vasta, a capo di un governatorato che è uno di quelli strategici dell'Iraq. L'Iraq è costituito da 3 governatorati, dal governatorato di Mosul, da quello di Baghdad e da quello di Bassora. Caduta Mosul, cade gran parte dell'Iraq del nord in qualche modo, no? E oltretutto con tutte le sue risorse, non solo petrolifere ma anche riguardanti le acque, le dighe, il controllo dei fiumi, il controllo delle strade. E insomma, la caduta di Mosul è stato veramente un episodio di straordinaria importanza, ha costituito una svolta. Forse doveva essere prevenuto, sì. Doveva essere prevenuto, ma questo deriva dal fatto che la mancanza di analisi che c'è stata nelle cancellerie occidentali, ma non solo nelle cancellerie occidentali, anche quelle medio orientali rispetto al califfato, ha provocato questo ritardo. Sono completamente d'accordo con quello che dice Lafu Pistelli, che è venuto a Baghdad e poi è venuto anche sì. qui ad Erbil, e ha capito che eravamo rimasti proprio sul limite del sostenibile, cioè se avessero aspettato ancora 48 ore, 72 ore, forse l'ISIS si sarebbe presentato alle porte di Erbil addirittura. Sì. Quindi si capisce molto molto bene quale errore di valutazione sia stato fatto, non soltanto rispetto alle ultime settimane, ma rispetto al fenomeno che c'è stato decisivo, cioè la saldatura tra la guerra civile in Iraq e quella in Siria. Alberto, già che abbiamo citato il fattore tempo, l'ultima domanda riguarda proprio questo. A chi è che gioca il tempo che corre? A ISIS, che può strutturarsi meglio sul territorio e reclutare ancora miliziani, o i peshmerga, che così possono aspettare armi, munizioni e preparare una controffensiva? Ma la mia impressione è che un po' tutti e due questi due fronti possano guadagnare del tempo, può essere un fattore importante, anche se l'ISIL si basa molto sul fattore sorpresa. Proprio qui a Makmur oggi tutte le testimonianze che mi sono state date andavano in questo senso, cioè il peshmerga, quando si sono visti di fronte i miliziani jihadisti, erano completamente sorpresi e la città era sguarnita, quindi sono stati colti anche loro di sorpresa. Non solo, ma le voci di conquista che fa l'ISIL e delle atrocità che compie già costituiscono, come dire, un fattore della loro avanzata, perché molto spesso chi difende le città li abbandona e si ritira per evitare lo scontro diretto con i miliziani. Certo. Quindi in un certo senso l'ISIL ha bisogno di tutte e due le cose: da una parte di guadagnare tempo per consolidare le conquiste fatte, dall'altra parte deve sfruttare il fattore sorpresa. È chiaro che, per esempio, le lampante fine che ci sono a Baghdad in questo momento, che tenderebbero a risolversi a favore del primo ministro candidato Abadi, in qualche modo favoriscono l'ISIL, perché l'ISIL, sì, Mahmur è stata riconquistata, ma i peshmerga hanno perso dall'altra parte già la Nawal ieri, quindi un'altra città importante verso i confini con l'Iran. Quindi noi ci siamo di fronte a una situazione molto complessa, ma dove il fattore tempo è stato decisivo finora e ha giocato soprattutto come fattore sorpresa a fianco dei jihadisti più che di coloro che gli si oppongono. Grazie mille Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore in diretta da Erbil. Buona giornata, buon lavoro Alberto. Alberto Negri citava un fattore fondamentale in questo tipo di operazioni militari, che è il terrore. Come già prima di ISIS, altri gruppi armati utilizzano metodi estremamente cruenti, non per dare sfogo a chissà quale cattiveria. C'è anche un preciso disegno che è tattico sul terreno. Quando tu sai che arriva una brigata di ISIS e sai che nessuno rimarrà vivo in quel villaggio lì, ebbene magari il villaggio lo abbandoni ancora prima di pensare a un'ipotesi di ingaggio sul terreno stesso. E lo stesso Alberto Negri citava uno dei fattori che in realtà non si è letto tantissimo ultimamente sui giornali, sui quotidiani degli ultimi giorni, che raccontano questa crisi nel Kurdistan iracheno. Chi lo ha scritto in maniera molto molto chiara è stato Robert Fisk sull'Independent di oggi, che dice: sì, è vero, l'intervento straniero andrà a salvare i cristiani e le altre minoranze religiose che sono minacciate da ISIS, ma attenzione, perché il Kurdistan è un grossissimo produttore di petrolio. Allora ci soccorre per tentare di capire quali attori sono sul terreno, che capacità produttiva ha il Kurdistan iracheno. Sissi Bellom, esperta di materie prime del Sole 24 Ore, che è qui con noi in studio. Sissi, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, il Kurdistan, più che un grosso produttore di petrolio, è una grossissima promessa per il petrolio. L'Iraq stesso, che è un paese che è fondamentale per i rifornimenti di petrolio nel mondo, questo è più noto perché è stato strettamente intrecciato anche con le passate guerre che si sono purtroppo verificate sul territorio in quel paese. Il Kurdistan è molto promettente. Un tempo veniva sfruttato pochissimo, è solo molto recente l'arrivo di compagnie petrolifere straniere sul posto, e questo anche perché si è sempre trattato di un territorio un po' conteso, un territorio che gode di una sua autonomia ma che non ha ancora tuttora ben definiti i suoi confini. Si pensi al caso di Kirkuk, capitale contesa dai curdi, e non solo dai curdi ma anche da altre etnie presenti sul territorio. E proprio Kirkuk è sede di un giacimento di quelli che tecnicamente si chiamano super giant, un giacimento di quelli enormi. Si pensa che si calcola che ci siano 10 miliardi di barili di petrolio nel sottosuolo a Kirkuk, e questo ovviamente complica le cose. Ma non è solo Kirkuk, anche nei territori che sono affidati al governo regionale curdo ci sono comunque interessanti giacimenti, e nonostante le grandi dispute che oppongono l'autonomia regionale curda con il governo centrale di Baghdad, molte compagnie petrolifere, pensiamo addirittura a ExxonMobil, ha scelto di andare in Kurdistan piuttosto che nel resto dell'Iraq, perché questa è la scelta che Baghdad ha posto. Ebbene, insomma, adesso la produzione di quest'area, di questo Iraq del nord, del Kurdistan iracheno, non è enorme. Sono 360.000 barili al giorno, che significa meno dello 0,5% della produzione mondiale di petrolio, quindi tutto sommato non è capace di influenzare moltissimi mercati, però sta crescendo molto rapidamente. E il problema è che con queste violenze delle ultime settimane gravissime, questa questo grande investimento, questo grande fervore da parte delle compagnie petrolifere per sviluppare l'area, si sta un po' arrestando. Ci sono un paio di giacimenti molto piccoli, in tutto 5.000 barili al giorno, che sono stati già fermati per ragioni di sicurezza. Altre compagnie petrolifere hanno cominciato ad evacuare il personale non necessario, come si dice in questi casi. E questo, ricordiamoci, però è un rischio che potrebbe toccare anche il resto dell'Iraq se dovesse estendersi la destabilizzazione al sud. Certo, e fra l'altro è probabilmente uno dei motivi che spingono non solo alcuni paesi europei, ma anche appunto gli Stati Uniti in primis a come dire, innestare la quinta immediatamente a questo punto della crisi. Abbiamo citato alcune delle major che sono presenti, no? Chevron, Exxon, però leggo un tuo pezzo fra l'altro su Sole 24 Ore di un paio di giorni fa. Ci sono gli austriaci, OMV, l'ungherese MOL, sudcoreani, insomma mi sembra che tanti attori, tanti paesi scommettano su questa promessa. Questa è un'area ancora tutta da scoprire, ancora tutta da sfruttare. 360.000 barili al giorno è poca roba rispetto a quello che si ritiene che possa, e a breve, nei prossimi mesi dovrebbe già aumentare questa produzione, aumentata rapidissimamente fino ai livelli attuali. Vorrei ricordare un altro aspetto comunque che si intreccia con l'interesse degli occidentali, delle grandi potenze occidentali in quell'area. Ricordiamoci che anche l'ISIL, anche lo Stato Islamico, quantomeno da alcuni report che appaiono, sono sempre notizie molto incerte, avrebbe messo le mani su dei giacimenti di petrolio. Quello che preoccupa probabilmente, più che difendere i campi del Kurdistan da un fermo di produzione, è impedire che finiscano nelle mani dello Stato Islamico. Si dice, ripeto, sono voci di stampa non confermate, che abbiano già una produzione di 10.000 barili al giorno controllata direttamente, con la quale si finanziano. E questo dà anche la dimensione poi ma ci torneremo col prossimo ospite, Paolo Magri, direttore dell'ISPI, la dimensione della novità di questa formazione jihadista, che è riuscita in pochi anni a fare quello che Al-Qaeda non ce l'aveva fatta, perché ha un territorio sulla quale si sta estendendo e ha risorse, materie prime sulle quali poter contare e anche finanziare, evidentemente. L'abbiamo sentito anche da Alberto Negri, insomma, le armi non mancano, le reclute nuove non mancano, e questo insomma ovviamente non fa che aumentare i grattacapi e le preoccupazioni delle varie potenze. Torno a Robert Fisk oggi sull'Independent, lui però sconfessalo se puoi, sì lui dice in realtà che secondo le proiezioni il Kurdistan potrebbe divenire uno fra i 10 principali produttori di petrolio al mondo. Sembra esagerata come proiezione o... Proiezione ottimista, proiezione che riprende quelle comunque di alcuni analisti, non è del giornalista direttamente. Proiezione ottimista, proiezione che forse però include Kirkuk nel territorio curdo. Sì. l'ultima domanda invece, sì, quando parli di 10.000 barili al giorno, giusto? Io non sì, sono assolutamente naif. Ecco, di che cifra stiamo parlando? No, cioè, pochissimo. Rispetto all'offerta globale di petrolio, pochissimo. Certo, però stiamo parlando di dollari. Un centinaio di dollari al barile. Insomma, fate i vostri conti, insomma, non è poco. Al mercato nero sì, si acquistano parecchie. Bisogna vedere armi. Se riescono a vendere alle quotazioni ufficiali, perché non so quanti osano comprare dallo Stato Islamico, certo. Magari la Siria, magari che peraltro produce... le stesse petrolio, gli stessi curdi iracheni hanno grosse difficoltà a vendere il loro petrolio all'estero, perché Baghdad pretende che si passi esclusivamente attraverso le società commerciali nazionali, federali, e quindi ha minacciato chiunque comprasse carichi dai curdi. Di ritorsioni legali, per carità, però quasi nessuno osa comprarlo. Ecco, no, ma è sempre interessante il concetto che esprime Sissi Bellomo, perché noi poi abbiamo dedicato la prima parte del ciclo di Nessun Luogo Lontano, una delle puntate era sulle risorse, no? Allora uno pensa immediatamente, beh, presenza di pozzi petroliferi automaticamente uguale soldi, uguale guadagni. Non è esattamente così, per qualcuno. Per qualcuno senz'altro, però se vediamo paesi ricchissimi di petrolio come la Nigeria, le condizioni in cui versa la maggior parte della popolazione, non è purtroppo un'equazione semplice. Ecco, l'equazione risorse uguale denaro contante non sempre vale. Grazie mille, Sissi Bellomo, Sole 24 Ore, per essere stata con noi. Buona giornata, buon lavoro. Grazie. Thank you. 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. Alcuni messaggi parlano di guerra santa, punto e basta, dice, scrive un ascoltatore, sgozzano cristiani ed altri, uno fra i tanti. Gli altri li leggo più tardi, adesso voglio dare il mio ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Paolo Magri, direttore dell'ISPI, Istituto per gli Studi della Politica Internazionale. Paolo, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno, eccomi qua. Allora, i temi sul tappeto sono tanti, però partiamo, io a inizio trasmissione davo notizia di questo innalzamento dell'asticella degli aiuti umanitari da parte dell'Unione Europea. La Commissione sarebbe pronta a stanziare fino a 17 milioni di euro appunto per le popolazioni in difficoltà a causa della crisi. E d'altra parte però continua questo balletto diplomatico, passatemi il termine, per cui i vari paesi europei singolarmente si dicono pronti a appoggiare le azioni militari americane e a rifornire di armi i curdi, non di meno l'Italia, però poi a livello europeo manca, guarda caso, come al solito, un cappello, no, generale. Azione o inazione europea, Paolo Magri? L'Europa proprio sull'Iraq nel 2003 ebbe una delle sue più grandi divisioni, quindi, come le ha sempre peraltro quando si tratta di interventi militari di vario tipo, quindi non dobbiamo stupirci se ci siano in questo momento tentennamenti, e non dobbiamo stupirci soprattutto perché siamo in un momento, al di là del periodo estivo, in un momento di interregno per quanto riguarda la nuova Commissione, quindi siamo in un momento molto delicato per l'Europa su un tema, quello degli interventi militari, che per l'Europa è sempre delicatissimo, quindi non dobbiamo stupirci, credo, che l'Europa faccia quello che ha sempre, o annunci di fare ciò che ha sempre fatto, aiuti umanitari più che interventi militari. Oggi è la notizia che Mogherini e Fabius hanno insieme richiesto una convocazione urgente del Consiglio Affari Esteri per discutere dell'Iraq, ma come diceva ieri proprio da voi il viceministro Lapopistelli, dall'Europa possiamo aspettarci in questo momento al massimo una cornice, una benedizione, ma non un intervento coordinato, al limite, come sempre, interventi di singoli paesi. Sì, fra l'altro a cui la storia recente ci ha abituati, basti pensare insomma all'inizio della primavera araba in Libia, in cui appunto la Francia diede poi là a quell'azione, a quei raid. Con Alberto Negri in diretta da Erbil abbiamo un attimo discusso di quello che era il riverbero del caos interno iracheno, cioè di quello che sta succedendo, il braccio di ferro a Baghdad. Quanto questo caos iracheno, secondo te, Paolo Magri, è sostenibile nel lungo termine, e quanto può incancrenire una situazione che diciamo, di per sé è ipercomplicata, al di là della fila di riconoscimenti, no? Tutti gli Stati Uniti, l'Europa si stanno complimentando, il nuovo Premier, perché si vuole un interlocutore, no? Un interlocutore peraltro inclusivo, eccetera, però le truppe di Fedeli al-Maliki sono lì per le strade di Baghdad e insomma la situazione non è proprio rosea e limpida. Non possiamo dimenticare che i problemi che ci sono sui territori militari in questo momento dell'Iraq nascono proprio dal caos politico e proprio dalla incapacità delle varie forze politiche legate ai curdi, legate agli sciiti, legate ai sunniti, di trovare una modalità di convivenza, che ci siamo poi trovati con la situazione attuale nella quale ISIS ha trovato un terreno fertilissimo e l'esercito iracheno di fronte a ISIS non ha saputo batter colpo. Quindi non ci deve stupire che ci siano questi elementi. D'altra parte io credo che quanto è successo ieri, i vari passaggi, non mi riferisco tanto ai riconoscimenti internazionali, sì, ma i passaggi interni, siano per la politica irachena un passo avanti, nel senso che si è trovato anche in ambito sciita la forza per togliere di mezzo un personaggio che era un problema più che una soluzione di un problema, mi riferisco al Maliki. Il vero punto, i punti sono due, direi. Paolo, ti interrompo, scusami, c'è la borsa che incombe, i due punti me li dici subito dopo? A tra poco. A tra poco. Nessun luogo è lontano. Ancora la crisi irachena al centro di questa puntata di Nessun Luogo è lontano. Siamo con Paolo Magri, direttore dell'ISPI di Milano, il quale stava iniziando a rispondere a una mia sollecitazione su quanto il caos interno a Baghdad potesse influenzare quello che sta accadendo nel Kurdistan iracheno. E Paolo, insomma, stavi facendo le debite proporzioni fra la figura di al-Abadi e la figura di al-Maliki. Al-Maliki che probabilmente ha anche dato benzina nel fuoco, no? Rispetto alle formazioni sunnite. Insomma, c'è chi dice anche che tanti sunniti siano pronti a arruolarsi con ISIS perché al-Maliki per anni ha pestato duro. Certamente l'incapacità di al-Maliki, scaricato da tutti ora, di creare una qualche forma di dialogo con le tre anime del paese è sicuramente una responsabilità. Ora i punti di domanda sono due: qual è la forza vera di al-Maliki ora che è spodestato, cioè se riuscirà a mobilitare in qualche modo parte delle apparati di sicurezza dell'esercito? E se ciò avvenisse, si creerebbe una lotta interna al governo, con una situazione inversa alla Siria. Alla Siria abbiamo i ribelli divisi, qui avremmo il governo di fronte all'ISIS diviso. E la seconda domanda è: qual è la forza vera di al-Abadi? Perché questo è l'altro interrogativo, perché lo stiamo ora tutti incensando e glorificando, ma è una figura, sì, dell'apparato politico del paese, ma è stata una figura minore, mai considerato come un vero leader, certo di buon carattere, conciliante, ma i problemi dell'Iraq non richiedono solo buon carattere, richiedono anche una forza, una capacità che vedremo se al-Abadi avrà. Un'altra battuta te la chiederei, Paolo Magri, su il petrolio. Non so se sei riuscito ad ascoltare l'intervento di Sissi Bellomo sulla presenza del petrolio in Kurdistan. Insomma, diciamo che se non è un grosso produttore di petrolio, potrà esserlo in futuro. Alcuni analisti lo proietterebbero tra alcuni anni, se i giacimenti venissero sfruttati nel loro complesso, tra le prime 10 potenze petrolifere del mondo. C'è anche chi ha scritto: non andiamo a salvare i cristiani, le minoranze, andiamo a salvare quei pozzi di petrolio, perché per molte major e per molte multinazionali in effetti il Kurdistan è una grandissima scommessa. Sei d'accordo da questo punto di vista? O? Beh, quando c'è di mezzo il petrolio, a pensare male si sbaglia raramente. Ed è vero, l'Iraq in generale è il decimo paese produttore ed è soprattutto un paese, grazie al Kurdistan, ai giacimenti del Kurdistan, considerato in grande crescita. Ma teniamo conto che buona parte dell'attuale petrolio, non di quello prospettico, va in Asia, quindi leggere l'intervento americano in funzione o eventualmente europeo, anche solo di aiuti in funzione del petrolio, forse è eccessivo. Io credo che sia un intervento, quello che c'è stato sino ad ora, più legato al rischio di creare un santuario del terrorismo in questa regione, un ampio santuario del terrorismo, e anche legato al rischio per Obama di consegnare ai repubblicani, in funzione delle prossime appuntamenti elettorali, un'arma preziosa per attaccare Obama sulla ritirata precipitosa dall'Iraq e quindi di aver lasciato il paese a un caos, non solo un caos politico ma anche un caos militare grave, con potenziali genocidi o comunque morti di cristiani, eccetera. Sì. Quindi sì, il petrolio c'è, lo sappiamo che il petrolio c'è in Iraq, ma non è il petrolio che arriva a noi, non è il petrolio principalmente interessante per l'Europa e per gli Stati Uniti. Sì. Intanto al 349-238-6666 c'è chi dice era meglio lasciare Saddam Hussein e Gheddafi al loro posto perché loro sapevano come trattare certa gente. Beh, non c'è dubbio che la rimozione di alcuni di questi dittatori ha scoperchiato interi i vasi di Pandora e ha dato modo, no, ad alcune correnti estremiste di liberarsi lì dove prima erano assolutamente tarpate. Beh, nel caso dell'Iraq l'errore non fu solo tanto l'aver cacciato Saddam, ma fu come venne gestito il post Saddam, cioè un'operazione che ha improvvisamente, rapidamente tolto di mezzo un intero partito, un intero apparato militare, che ha portato il paese non avere più una struttura dello Stato che c'era in Iraq, con una situazione simile a quella della Libia, dove la struttura dello Stato non c'era e quindi è venuta poi a esplodere dopo la caduta di Gheddafi, ma in Iraq c'era ed era il partito Baath, che aveva nell'esercito, nella politica, nelle istituzioni un ruolo forte, ma la scelta americana di azzerare totalmente dopo la caduta di Saddam Hussein ha creato una situazione di vuoto di potere, di infiltrazione, di leader deboli o di leader sbagliati, come è stato al-Maliki. Al-Maliki è stato sostenuto dall'Occidente, dagli americani a lungo, per poi accorgersi 10 anni dopo che era incapace di dialogare con parte del paese. Questo è secondo me il problema serio, non solo la cacciata di Saddam Hussein, sì, che è stata precipitosa ma che ha combinato qualche pasticcio, come tutti sappiamo. Sì, fra l'altro nei 10 anni successivi l'Iraq ha vissuto una stagione violentissima con attentati quasi quotidiani e di cui la stampa, soprattutto italiana, non ha dato mai, secondo noi, abbastanza risalto. Nessuna, perché voleva dire sparare su un intervento che comunque avevamo anche noi sostenuto e che molti paesi avevano sostenuto, però di fatto si stava peggio dopo che prima per quanto riguarda i morti, gli attentati, eccetera. Quindi poi c'è stata la crescita con Petraeus di un certo livello di sicurezza ed è stato il momento in cui anche Al-Qaeda e ISIS sono arretrati in un certo senso, ma poi la decisione di lasciare il paese e il ritorno allo stato di partenza. Sì. Allora, Paolo, già che hai citato ISIS e Al-Qaeda, io mi lancerei in questo parallelo, intanto perché la genesi di ISIS proviene proprio da quella galassia, benché poi al-Zawahiri abbia sconfessato ufficialmente per i metodi fin troppo truci ISIS. Però mi sembra che ISIS sia riuscito a fare quello che in alcuni anni Al-Qaeda non ha fatto, cioè questa l'instaurazione del califfato, la lotta sunnita anche in chiave sciita ha funzionato parecchio, hanno creato un brand incredibile. Vi sono, fra l'altro, su internet girano gadget marchiati ISIS. C'è un report su un giornale che adesso non ricordo, ma ve ne racconto, gentili ascoltatori, a Istanbul c'è un negozio che vende addirittura abbigliamento e gadget appunto marchiati ISIS. Insomma, ISIS è forte, sono bravi, sanno comunicare, sanno combattere, è un nemico a tutti gli effetti. Volta per questa galassia che ora chiamiamo ISIS o ISO o ISIL, che si è mutata nel tempo, è stata la vicenda siriana, perché nella vicenda siriana c'è stato un terreno di esercitazione, non solo gli atti di terrorismo isolati e limitati, un terreno di esercitazione molto forte, e c'è stato un afflusso anche da parte di paesi come la Turchia o del Golfo di armi sofisticate che prima venivano distribuite con molta meno generosità, e poi c'è stato col passaggio da ISIS Siria a ISIS Iraq l'accesso con le prime vittorie alle armi dell'esercito iracheno e poi ai soldi. Quindi si è creata per un gruppo che non appare dimensionalmente molto ampio, si parla, nessuno lo sa, ma si parla dai 3 ai 10.000, 15.000, quindi se vogliamo una minuzia, ma questo gruppo è riuscito con l'esperienza siriana a raccogliere soldi, poi a raccogliere armi e in Iraq a raccogliere anche forte consenso proprio per i motivi che dicevamo prima. Nel mondo sunnita la chiusura di al-Maliki creava un terreno fertile, ma non è un nemico invincibile, è un nemico di cui ci accorgiamo tardi probabilmente, ma un nemico che dimensionalmente non è un'armata invincibile, si tratta di avere la volontà, e fino adesso l'esercito iracheno non aveva né la forza né la volontà di combatterlo, di contrastarlo. Grazie Paolo Magri, direttore dell'ISPI, Istituto per gli Studi della Politica Internazionale di Milano. Buona giornata e buon lavoro, Paolo. Grazie a voi. I commenti ai temi che abbiamo sfiorato, toccato in questa prima parte di Nessun Luogo è Lontano. Quello che si continua a fare, dice Mauro da Padova, è usare parametri vecchi. Bisogna ridurre la dipendenza dal petrolio per risolvere il problema e ridurre così le guerre. E poi c'è chi dice che poi il petrolio controllato dall'esterno non porti ricchezza alle popolazioni interne. Vedi la Nigeria, non è una novità. Il denaro va ai governi, è servito all'Occidente e all'Occidente appunto. E poi un lunghissimo SMS che dice: gli Stati Uniti sono il più grande divoratore di energia globale, hanno la necessità di presidiare con la forza i territori di produzione. Vabbè, un messaggio lunghissimo, biblico proprio. E poi c'è chi dice: caos significa prezzo del petrolio alto, al contrario, in realtà, come abbiamo sentito da Sissi Bellomo, per il momento il prezzo del barile proveniente da quella zona non ha risentito della situazione che si è surriscaldata. Allora, adesso voltiamo pagina perché vi voglio parlare di due vicende giudiziarie a livello internazionale. Una che è al suo inizio, perché le Nazioni Unite hanno nominato una commissione di esperti per valutare possibili crimini di guerra e violazione dei diritti umani nel conflitto a Gaza da parte sia di Hamas che di Israele, ma Israele ha prontamente rigettato l'idea bollando la commissione di esperti come un tribunale fantoccio. Fra l'altro, l'instaurazione di questa commissione di esperti seguiva il suggerimento dell'Alto Commissario ONU per i diritti umani, la Navi Pillay, che aveva appunto chiesto una commissione e aveva detto pochi giorni fa che vi erano possibili crimini di guerra commessi da Israele a Gaza e aveva anche denunciato gli attacchi indiscriminati condotti contro i civili israeliani da parte di Hamas. Questa è la prima vicenda di diritto internazionale che sta prendendo corpo in queste ore. L'altra invece è la pubblicazione di un rapporto di Human Rights Watch sui tragici fatti sanguinari di Rabat. Di esattamente un anno fa eravamo in onda noi di Nessun Luogo Lontano e vi abbiamo raccontato quell'attacco da parte delle forze di sicurezza egiziane ai manifestanti, ai fratelli musulmani, quell'attacco che fece 1000 morti. Nessun luogo è lontano. What our investigation has found is that the method in which the government security forces carried out their dispersal, using live ammunition from the get-go, makes clear that this was a systematic, planned attack on protesters. فاللي كان بيتراجع مثلا كنت بحاول ان انا اعالجه كان معايا بيبسي الكولا. Le voci che sentite sono quelle di Sarah Lee Whitson, direttore di Human Rights Watch Medio Oriente e Nord Africa, e uno dei testimoni oculari di quei tragici fatti, Mohamed Tarek, professore dell'Università di Alessandria. Ricapitoliamo che cosa accadde. Il 14 agosto 2013 al Cairo, davanti alla moschea Rabah al-Dawi, un sit-in pacifico con decine di centinaia di manifestanti, tra cui molte famiglie con bambini, radunati a sostegno dell'ex presidente Mohamed Morsi, viene represso nel sangue dalla polizia egiziana. Il numero di morti è tra gli 800 e i 1000. È quanto emerge dal report di 188 pagine che Human Rights Watch ha pubblicato oggi e dal titolo Tutto secondo i piani, il massacro di Rabat e l'omicidio di massa dei manifestanti in Egitto. Il rapporto, concluso dopo un anno di indagini e ricerche, denuncia la repressione violenta dei manifestanti di Rabat ad opera delle forze dell'ordine al pari di un crimine contro l'umanità. Human Rights Watch descrive la scena del massacro. La polizia, senza alcun preavviso, circonda la folla di manifestanti, bloccando tutte le vie d'accesso al luogo della protesta ed apre il fuoco con un massiccio utilizzo di armi, bulldozer, carri armati, truppe di terra e cecchini. Morti e feriti trasportati successivamente negli ospedali vengono accatastati per terra. Nessuno registra il numero dei corpi che continuano ad arrivare ed ancora oggi mancano al conto delle vittime moltissimi dispersi. La polizia dichiarerà ufficialmente che l'uso della forza è stato necessario in risposta alla violenza dei manifestanti, armati di pistole e fucili. Ma il report testimonia solo alcuni casi isolati di attacco alla polizia, principalmente con lanci di pietre, bottiglie Molotov. I pochi presenti ad avere una pistola non avrebbero potuto giustificare una repressione così sproporzionata. Nello stesso report, Human Rights Watch denuncia altri 5 episodi di repressione violenta delle proteste in favore di Morsi e dei fratelli musulmani, ad opera delle forze dell'ordine, tutti avvenuti tra luglio e agosto del 2013 e giustificati dal governo militare del Cairo. Human Rights Watch ha ascoltato oltre 200 vittime delle proteste, tra cui attivisti, medici, abitanti della città, giornalisti. Ha registrato le dichiarazioni ufficiali di governo e polizia, ha visitato immediatamente i luoghi della repressione, raccogliendo materiale video e foto, ed ha più volte sollecitato i ministri egiziani per avere un punto di vista governativo sui fatti denunciati, senza mai ottenere risposta. E lo staff di Human Rights Watch, oltre a non ottenere risposte, in realtà è stato bloccato ieri all'aeroporto del Cairo per circa 12 ore prima di venire negato l'accesso al paese. E lo staff si era recato lì proprio per la pubblicazione ufficiale di questo rapporto. Abbiamo raggiunto a Beirut Omar Shakir, che ha condotto le ricerche per Human Rights Watch e ha coordinato appunto lo staff sul campo. A lui la prima domanda ovviamente è se in che modo si possono riassumere i risultati di questo rapporto. Ascoltiamo. Our report looked at how the Egyptian government responded to six different demonstrations in August and July of 2013. Omar Shakir dice: il nostro report descrive la risposta delle forze governative egiziane a sei diversi episodi di proteste avvenuti tra luglio e l'agosto del 2013, in ognuno dei quali è stato fatto uso massiccio di violenza, aprendo deliberatamente il fuoco sui civili che dimostravano e causando almeno 1115 morti. Il più grave di questi episodi è quello avvenuto nella piazza Rabah al-Adawi al Cairo, dove si erano radunati i manifestanti a sostegno del precedente presidente Mohamed Morsi e dove l'irruzione della polizia ha causato 817 morti. Quell'irruzione, dice Shakir, seguiva un piano predisposto ai livelli più alti del governo egiziano, a cui hanno fatto seguito circa 2000 feriti. E per proporzioni, livello di sistematicità nell'utilizzo della violenza, abbiamo concluso, dice il rappresentante Human Rights Watch, che si è trattato di un preciso piano attuato dal governo egiziano per sedare le proteste civili. Questo costituisce un crimine contro l'umanità. Abbiamo anche documentato che ancora un anno dopo il massacro non è stata avviata alcuna inchiesta né processo da parte delle autorità egiziane. Abbiamo anche chiesto l'instaurazione di una commissione internazionale presso lo UN Human Rights Council che verifichi le dinamiche e il numero di morti, e stiamo facendo pressione perché si avvii un programma di aiuto e law enforcement in Egitto finché questo non dimostri di rispettare le norme di diritto internazionale. A Omar Shakir abbiamo anche chiesto quanto è stato difficile condurre le indagini per questo rapporto. We've seen over the past year a brutal crackdown on dissent and a shrinking space. Abbiamo visto nel corso dell'ultimo anno un collasso politico e un restringimento dello spazio per la società civile in Egitto. Penso che il target principale di questa riduzione di libertà siano i fratelli musulmani. Ma è stato difficile per noi raccogliere informazioni perché nelle piazze, nei luoghi di protesta, non solo Rabah, queste persone continuano a essere bersaglio di minacce politiche. Per cui per noi è stato difficile incontrare i testimoni. In molti casi la documentazione, come foto e video, è stata raccolta nel momento in cui i fatti accadevano, quindi mentre la polizia sparava o mentre le strutture mediche erano assediate dai feriti. E in tutto questo tempo abbiamo chiesto, ma non abbiamo visto alcuna collaborazione da parte delle autorità egiziane, non hanno mai risposto alle nostre domande legate ai contenuti di questo nostro rapporto nel corso degli scorsi mesi. Sicuramente quindi, conclude Shakir, abbiamo affrontato molte difficoltà, abbiamo intervistato giorno dopo giorno circa 200 testimoni, abbiamo raccolto ore e ore di video, abbiamo documentato le prove fisiche, registrato le dichiarazioni ufficiali, siamo stati sul luogo delle proteste, negli ospedali, abbiamo contato i corpi. Credo che il risultato finale renda chiara la gravità del massacro che è stato messo in atto. So at the end of the day, you know, the result of our investigation, you know, we think it makes clear what took place last summer. It took us a year to do it, given the difficulties, but I think the end result makes clear the severity of the crimes that took place. E l'ultima domanda a Omar Shakir di Human Rights Watch, che ha coordinato il team investigativo sui fatti di Rabah, è se si aspettano qualche reazione politica da parte del governo di Al-Sisi, al di là del fatto che il team di Human Rights Watch è stato negato l'accesso appunto al paese. Si dice ci sono state alcune dichiarazioni ufficiali del governo Al-Sisi nelle ultime 48 ore. In alcune di queste dichiarazioni hanno negato di averci mai dato il permesso per entrare in Egitto, in altre hanno negato i fatti denunciati nel rapporto. Ma è interessante, dice Shakir, come non abbiano mai risposto ai nostri tentativi di incontrarli. Noi siamo sempre stati chiari. Ancora lo scorso gennaio e poi in giugno, quando i risultati erano ancora in fase preliminare, abbiamo cercato di incontrare i ministri egiziani per avere un loro punto di vista, una loro versione dei fatti, e avremmo voluto alcune risposte dirette da parte loro. Ma essi hanno rifiutato di incontrarci, negando invece l'opportunità di alcuni osservatori del nostro staff di entrare appunto in Egitto. E per questo, conclude Shakir, incoraggio tutti a leggere il nostro report e a confrontarlo con le dichiarazioni ufficiali egiziane e poi trarre le dovute conclusioni. per un commento su questo rapporto di Human Rights Watch che punta chiaramente il dito sulla gestione della piazza da parte dei militari egiziani, Paola Caridi, Invisible Arabs fra gli altri. Paola, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Salve a tutti quanti. Allora, un commento su questo rapporto di Human Rights Watch che a leggerlo, insomma, dice chiaro e tondo che è stata una repressione sanguinosa e con un utilizzo della violenza spropositato. Ma conferma ciò che molti giornalisti, molti testimoni e molti osservatori dicevano già da un anno. Era evidente anche dalle immagini e dalle testimonianze soprattutto dei giornalisti che lì erano, oltre che dalle testimonianze di chi ha subito quella violenza, che si trattava di una repressione in cui appunto l'uso della forza era stato veramente spropositato. Questo però dice anche chiaro e tondo che quando si ha a che fare con avvenimenti di questo tipo bisogna usare dei metri che sono quelli dei diritti, cosa che può sembrare idealistica da un certo punto di vista, no? Ci hanno insegnato che la realpolitik è quella che funziona di più, è quella che, come dire, dovrebbe riportare legge, ordine e stabilità. Sì. Questo allontana solamente la soluzione dei grandi problemi e delle grandi questioni del Medio Oriente, ma non li risolve. C'è bisogno, così come dicevano nelle rivoluzioni del 2011, di riguadagnare i diritti perché la situazione sia stabile in Medio Oriente e in Nord Africa, a meno che appunto non si voglia l'uomo forte che fa star tranquille le nostre cancellerie, quelle europee piuttosto che quella statunitense, ma questo non vuol dire che dall'altra parte ci sia democrazia, libertà e difesa dei diritti. E non possiamo usare altri metri se non questi. Sì. E non possiamo poi accusare le persone che sono dall'altra parte di essere, come dire, meno di noi dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, quando noi stessi avvaliamo poi che regimi che compiono questi delitti abbiano ascolto e audience da noi. Sì, tu dici, certo, alcune cancellerie come dire, si fanno un baffo di quello che accade in alcune zone del mondo. Sicuramente la reazione israeliana a questo annuncio di una commissione d'inchiesta sulla possibilità di crimini di guerra sia da parte di Israele nell'offensiva a Gaza sia da parte di Hamas, hanno risposto un po' alla israeliana, mi viene da dire, no? Insomma, ma no, questa sarà una commissione fantoccio e chi se ne frega. Più che altro speriamo che non si riproponga quello che si è proposto già dopo l'operazione Piombo Fuso nel gennaio del 2009, quando successivamente fu varata appunto una commissione d'inchiesta molto simile che poi redasse il rapporto Goldstone, e che quindi noi non assistiamo per l'ennesima volta a questo a questo duplice evento: da una parte la commissione d'inchiesta dell'ONU, dall'altra il grande fiume di soldi per ricostruire Gaza, siccome fu ricostruita nel 2009 con grande sborso da parte della comunità internazionale, sia in termini finanziari sia in termini di cemento armato. È evidente da quello che sta succedendo in questi giorni, soprattutto al Cairo, ma a questo punto anche nelle sedi dell'ONU, che la forza non la può, appunto, per l'ennesima volta, non è con la forza che si può stabilizzare una regione. C'è bisogno di politica, e c'è veramente bisogno di politica coraggiosa e seria. Che questa commissione d'inchiesta possa essere una pressione su Israele? Io credo di sì, perché le reazioni, per esempio, israeliane, quando si è detto che la Palestina vorrebbe partecipare al Tribunale Internazionale Penale Permanente, le reazioni sono state reazioni non solo critiche, ma anche un po' preoccupate. Sì. Cioè, è evidente che dal punto di vista formale Israele non può essere chiamata al banco degli imputati perché non aderisce al Tribunale Internazionale Penale. Però dice almeno una pressione, potrebbe essere una pressione quantomeno a livello politico. Grazie mille Paola Caridi, Invisible Arabs, per essere stata con noi. Buona giornata, buon lavoro. A voi. E ho pochi secondi che utilizzo per ringraziare Nadia Zammitti, Mire Lucchetti che hanno curato con me questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, Valera Bernardi in regia. Vi ricordo l'appuntamento è per domani alle ore 16, quando ancora Nessun Luogo sarà lontano. Intanto un saluto, una buona giornata da Giampaolo Musumeci.